C'è anche qui il bello della diretta, in altro senso. No, scherzi a parte, andiamo a iniziare con questa trasmissione. È stato detto, è la quarta e ultima di questo ciclo di trasmissioni di natura un po' più storica sulla storia di questa radio, di Radio Onda Rossa, che in questi, in questo mese compie, anzi nel mese scorso ha compiuto i suoi 40 anni. E questa trasmissione, come già stato accennato, parla un po' del, del medium, della radio come medium, ovvero quindi come veicolo di informazione e non solo, e di un, del modo in cui questa radio veniva usata come medium, sia un modo più serio chiaramente, stante le tematiche affrontate, sia un modo meno serio, tra molte virgolette, perché le tematiche erano sempre abbastanza importanti, ma un modo più scanzonato, per così dire, più, più leggero. Io direi a questo punto, senza indugiare oltre, andiamo con il primo audio, che è una conferenza stampa, è la registrazione di una conferenza stampa tenuta nella sede della, della radio. E perché mandiamo questo, questa registrazione, poi la commenteremo insieme chiaramente, è l'idea un po' del, della radio che in particolari situazioni, in particolari condizioni, in, con notizie, avvenimenti che non credeva avessero il necessario spazio sui media tradizionali o che ne avessero, avessero uno spazio distorto, una trattazione distorta, di per sé indiceva conferenze stampe anche abbastanza partecipate, c'erano giornalisti di Repubblica, Corriere della Sera, Messaggero, e a questi giornalisti dava la sua versione dei fatti, quindi c'è un modo molto attivo di entrare nella notizia, di entrare nella trattazione delle, delle notizie. Quindi lo ascoltiamo e poi magari lo commentiamo insieme e lo contestualizzeremo anche un po' meglio. Sull'arresto e la successiva incriminazione per banda armata dei compagni di Potenza, che tornavano appunto dall'assemblea meridionale che si è tenuta a Palermo, che sono stati arrestati 20 giorni fa e che in questi giorni appunto poi è esploso questo caso giornalistico, questo mostro in prima pagina su tutti i giornali. Ci sono anche un compagno del quotidiano dei lavoratori, stiamo aspettando un compagno di Lotta Continua, e ci sono i due giornalisti Gaeta del Messaggero e Rivolta della Repubblica, che stiamo aspettando Irdi del Corriere della Sera. Speriamo che sia Irdi che il compagno di Lotta Continua vengano a questa conferenza stampa. Allora, innanzitutto chiariamo perché abbiamo scelto di fare una cosa di questo genere. L'arresto dei, dei sei compagni è stato tenuto volontariamente, a questo punto sottaciuto da tutta la stampa. Gli unici, non perché siamo stati bravi, ma perché sostanzialmente abbiamo dato in continuazione il comunicato dei compagni dell'arresto, dei compagni assieme a in mezzo all'arresto, siamo stati noi di Radio Onda Rossa. Sia i compagni Lotta Continua che dei quotidiani lavoratori hanno più o meno ignorato questa cosa, poi ci spiegheranno più o meno quali sono state le cose. Comunque, in sostanza, alla gravità di questo arresto nessuno aveva dato peso, chi forse non essendo troppo attento come i compagni, chi invece volutamente come la stampa in genere. La manifestazione di sabato, il vertice sull'ordine pubblico di lunedì, immediatamente, evidentemente come scelta e decisione presa all'interno di quel vertice, esce la bomba dell'arresto di questi sei compagni, ai quali il primo comunicato ANSA attribuisce tutte le organizzazioni clandestine conosciute più o meno, quantomeno una testa, insomma, la città recita tutto. Sono la colonna romana dell'EBR, sono i metà combattenti per il comunismo, sono lotta armata per il comunismo, sono tutte organizzazioni combattenti, insomma. E quindi questa è la facciata che si vuole dare, quasi come a voler controbilanciare, diciamo, la giornata di Roma, come fare vedere che le forze dell'ordine sono vigili, costanti, sanno portare a termine le brillanti operazioni. Dobbiamo dire, tra virgolette, brillanti molto miseramente, se pensiamo alla meccanica di come si sono avvenuti i fatti, alle falsità che per supportare questo arresto hanno dovuto dire, ma di questo poi ci parleranno con più attenzione i compagni. Cioè, appunto, abbiamo scelto di fare questa conferenza stampa sia perché tra il movimento, tra i compagni, tra gli ascoltatori di Radio Onda Rossa ci sia un'attenzione più precisa su questo fatto, perché acquisisce una un ulteriore passo in avanti, se se ne può parlare, nel senso che ormai stiamo assistendo a una scalata molto veloce verso questo stato di polizia, nel senso che vengono arrestati sei compagni, per 15 giorni non si sa niente di questi compagni, non valgono neanche, viene superato addirittura il limite sancito dal fermo di polizia, perché non si viene a sapere se sono arrestati, sono fermati, non se ne sa niente, di punto in bianco appunto tutto ciò che di clandestino c'è stato a Roma gli viene attribuito. E questa è la prima cosa, tra virgolette, grave che avviene. Secondo poi, proprio perché, dico, rispetto all'attenzione che si vuole dare, vuole dare anche un risalto sostanziale, dico, rispetto a queste cose. Per andare a vedere, da un lato, come oggettivamente la stampa, tutta la stampa, nessuna esclusa, abbia utilizzato fino in fondo le veline passate dalla questura, perché non c'è altra spiegazione al fatto di così come sono state pubblicate le cose. Allora, in che anno siamo, di cosa stiamo parlando? Io cedo la parola così contestualizziamo insieme. Siamo nel febbraio del 1978, e ci sono state delle riunioni, un convegno, un'assemblea che si è tenuta a Palermo e alla quale hanno partecipato diversi compagni, soprattutto dell'area dell'autonomia meridionale. E mentre alcuni compagni, finita l'assemblea, andavano via, sono stati arrestati dietro una soffiata, almeno questo è quello che emerge anche dalla ricostruzione fatta dai giornali. In realtà l'audio però non è che l'abbiamo scelto per il fatto in sé, ma per dar conto di un modo di fare, un modo di gestire l'informazione da parte della radio all'epoca che la portava a indire anche momenti del genere. Non è il primo, non sarebbe stato nemmeno l'ultimo, anzi dopo in sequenza ne sentiremo un altro. C'era una certa abitudine a indire questo tipo di conferenze stampa che erano anche notevolmente partecipate e in cui, lo vedremo, si innestavano anche dei battibecchi, comunque una dialettica, un confronto con i giornalisti del panorama, diciamo, dell'informazione ufficiale. Un'abitudine che in parte si è anche persa, molte delle conferenze stampa di movimento degli ultimi tempi mi risulta non siano andate proprio un granché bene, a volte si rischia che vadano anche deserte e che i pochi partecipanti magari facciano riferimento a qualche piccola stazione radio web o cose di questo tipo. All'epoca invece c'era una attenzione molto più vasta alle tematiche che il movimento sociale di quegli anni faceva proprie e che portava avanti. Siamo anche in un periodo, forse quello iniziale, no? 78, in cui i colpi della repressione iniziano a farsi sentire in maniera davvero notevole, quindi molto spesso oggetto del tema di confronto era anche questo, il modo in cui i media ufficiali raccontavano le vicende repressive e in parte in qualche modo anche dando sostegno, no? A quel clima di caccia alle streghe che si era instaurato. Sì, non so se... Una piccolissima aggiunta, che avete sentito questi giornalisti, i nomi di questi giornalisti, Gaida del Messaggero, Rivolta di Repubblica, erano molto assidui a Via dei Volsci, ma non solo loro, c'era attenzione, come si diceva, forte nei confronti non solo di quello che succedeva, perché appunto erano tempi diversi, ma al di là appunto del fatto che qui si parla di una notizia abbastanza grave, abbastanza importante, che viene taciuta o comunque riportata solo in base alle veline della questura, però c'era la necessità da parte della stampa comunque di parlare di quello che succedeva, e quindi un rapporto anche, certo, non sempre sereno, ma con diversi giornalisti, non solo questi che abbiamo citato. Fra l'altro, quando ci fu l'episodio, che non so collocarvi, ma comunque siamo in quegli anni, dell'arresto di un giornalista del Messaggero, Fabio Isman, in merito al suo rifiuto di rivelare una fonte di una notizia che adesso, scusate, ma non ricordo quale fosse, che fu un episodio che insomma fece un grande scalpore, e ci fu proprio un rapporto, quasi una richiesta, no, da parte dei giornalisti e non solo del Messaggero, che Onda Rossa si facesse carico di quella che era comunque un attacco in ogni caso alla cosiddetta libertà di informazione e alla stampa e comunque anche all'emittenza radio. Quindi questa è una cosa che magari oggi è un po' difficile da capire, ma insomma all'epoca era abbastanza frequente. Si pensava ovviamente che noi, rispetto a certe cose, magari a volte anche a torto, si avessero notizie più di prima mano, e quindi poi lì funzionava la voglia appunto dello scoop, eccetera, e quello che diceva Via De Volsci, in quel caso quello che diceva la radio, era qualche cosa che comunque interessava che venisse riportato. Beh, io direi, anche per carburare un poco, andiamo subito sul secondo audio, che peraltro è molto collegato a questo, perché si tratta di un'altra conferenza stampa. Lo contestualizzo un attimo: siamo nel gennaio 80, è una data per la radio importante, perché un'operazione di polizia porta alla chiusura di Radio Onda Rossa. Viene chiamata appunto questa conferenza stampa in cui si dà conto dell'avvenuto. La parte di audio che è stata selezionata è quella in cui, proprio rivolta di Repubblica, interloquisce con il redattore di Radio Onda Rossa, perché nel pezzo precedente, che non manderemo in onda, i redattori della radio dicevano: qui c'è stato un gravissimo attacco all'informazione, al diritto di informazione. Noi chiediamo, pretendiamo, cioè auspichiamo che i sinceri democratici, i media tutti, prendano posizione, prendano parola su quello che è successo. Rivolta fa notare, diciamo, alla radio quella che per lui è una contraddizione, lo sentiremo a breve, nel senso rimprovera sostanzialmente alla radio quella di comportarsi, di avere un doppio comportamento: da un lato strumento militante, quindi di attacco, cioè forte anche rispetto ad altre componenti militanti e non solo, e dall'altro strumento di informazione, e quindi poi a trovarsi a chiedere, diciamo, il sostegno di quelle componenti che aveva attaccato in quanto strumento politico. Lo sentiamo insieme, il clima è anche un po' quello del post Moro, e al Parlamento era in discussione una legge che metteva in discussione il diritto di mandare di pubblicare o mandare in onda i volantini, i comunicati delle Brigate Rosse. Insomma, è un clima un po' pesante, e quest'audio in parte lo testimonia, anche se, ripeto, il focus è proprio quello della doppia natura della radio, meno sottolineata dal giornalista di Repubblica, come strumento, organo politico per così dire, e strumento di informazione, medium giornalistico. Chiaro, questo attacco, che oltre che scandaloso evidentemente nei confronti di un emittente in movimento, è ciecamente, diciamo, repressivo nei confronti di un modo di fare informazione, nei confronti proprio di coloro che hanno avuto una voce, cioè quei comportamenti sociali, che è inutile volerli confondere all'interno del terrorismo, è inutile volerli arrestare, cose di questo genere, che avevano una voce dentro questa radio, come hanno voce in altri strumenti in movimento, sia stampati che radiodiffusi, e questo attacco arriva evidentemente da questo momento qui, in questo momento preciso. Che fare da questo punto di vista? Molto brevemente, il compagno di Blackout giustamente diceva: è ora di rompere gli indugi. Mi pare che noi siamo sottoposti ormai da un fuoco di fila evidentemente pressante, dico noi come compagni del movimento, come compagni dell'informazione di classe, per cui gli indugi, tra virgolette, li abbiamo rotti da un pezzo. È un invito volto evidentemente a voi tutti: rompete gli indugi da questo punto di vista qua. Certamente va saputo organizzare un livello di collegamento, diciamo, nazionale rispetto alle radio, perché la repressione ha colpito non solo chiudendo le testate, ma pure strozzando dal punto di vista economico. Ci sono esempi, diciamo, di librerie militanti, di gente che ha dovuto chiudere, mica perché gli hanno sequestrato la libreria, perché gli hanno circondato per una settimana intera, per un mese intero, la libreria da parte della polizia, che era quel Cristo dannato che andava dentro la libreria a comprare un libro, no? Per venire costantemente identificato. C'è questa opera costante di attacco pure rispetto all'informazione, diciamo, di classe. Credo che oggettivamente questa mattina c'era stato un minimo di mobilitazioni, immediatamente c'è stato un pellegrinaggio, diciamo, costante a San Lorenzo della gente del quartiere, dei nostri ascoltatori, dei compagni, della gente che segue la radio. È convocato uno sciopero cittadino di studenti medi domani mattina, immediatamente. Già questa mattina alcune scuole sono mobilitate, appena, diciamo, giunta la notizia, perché Radio Onda Rossa è stata strozzata alle 7:15, perché la polizia non si è manco fatto in tempo, i compagni erano stati dentro a dire: guardate, abbiamo la polizia, perché proprio armi alla mano sono entrati dentro e cose di questo genere. Diceva il compagno che hanno imparato ormai a scassare le porte senza manco fare rumore, no, perché ci hanno andato in Germania, gli hanno insegnato come si aprono le porte, si sveglia la gente senza manco sfondarle, per cui sono entrati evidentemente silenziosamente da questo punto di vista. Questo pomeriggio c'è un'assemblea al Cinema Centrale, in detta Democrazia Proletaria, a cui ha aderito pure il Partito Radicale, Radio Proletario. Sicuramente uno degli argomenti è l'attacco che Vitaleo ha portato contro i sei magistrati, ma credo che a questo punto, come giustamente citava sia Peppi, sia Mattina, che Servello, evidentemente questo episodio entra direttamente dentro questo clima, per cui già evidentemente questo pomeriggio la nostra voce sarà lì dentro. Per il resto credo che noi esigiamo senz'altro l'istituzione di quel materiale, perché è un materiale che appartiene ai nostri ascoltatori. Radio Onda Rossa non paga i suoi redattori, non fa pubblicità, non ha finanziamenti, vive evidentemente la sottoscrizione della gente. Tutto quello che sta lì dentro fa parte dei compagni della radio e dei nostri ascoltatori. Questa cosa vanno restituite, perché sono roba nostra da questo punto di vista qui, è roba di chi ci ha ascoltato fino a questo punto di vista qua, fino a questo momento. Noi contestiamo fino in fondo quelle cose che sono scritte lì dentro, perché non è possibile evidentemente spiccare mandati di cattura contro i compagni per reati d'opinione da questo punto di vista, per cui lo contestiamo fino in fondo, lo contestiamo politicamente. Credo che col collegio di difesa, con i compagni avvocati, porteremo questa cosa fin dentro laddove questa cosa va portata. E certo, chiamiamo la mobilitazione evidentemente non solo tutti i democratici, perché credo che da questo punto di vista, arrivando con le radio, voglio venire a vedere quando si restringe la possibilità, la dialettica di informazione, l'acqua nella quale si possa sostanzialmente parlare liberamente, far parlare gli antagonisti anche dentro i propri giornali. Quando si attacca la radio in movimento, credo che non avete più spazio neanche voi, no, da questo punto di vista. Quindi è un campanello d'allarme che dovrebbe suonarvi molto vicino. Certamente la mobilitazione, perché non è possibile accettare questa provocazione costante e continua contro i compagni dell'autonomia operaia a Roma, e soprattutto con questa cosa gravissima, appunto, della chiusura della radio. Quindi la mobilitazione è immediata da questo punto di vista qua. E se ci sono altre domande di qualche altro giornalista? Sì, io prego. Carlo Rivolta, La Repubblica. No, io non vorrei sembrare provocatorio, però va bene, lo sono comunque, sono tranquillo, però mi pare doveroso fare a questo punto una domanda. Cioè, tu fai appello a settori di opinione pubblica democratica e ai giornalisti perché si mobilitino su questa cosa che sicuramente è gravissima. Cioè, secondo me sicuramente è gravissimo che Radio Onda Rossa venga chiusa sulla base di quei reati d'opinione di cui si parlava prima. Però è altrettanto vero che tu ometti di dire che Radio Onda Rossa si è caratterizzata nel corso di questi anni per essere la radio che più violentemente, più calunniosamente, e l'ultima cosa ieri per esempio, in cui avete dato del siddino o agente del SID a un giornalista per un'intera mattinata senza neanche portare uno straccio di prova, diciamo che la vostra gestione dell'informazione si caratterizza come una gestione sicuramente non improntata a un grande senso di responsabilità. Io voglio sapere che reazioni vi aspettate dai giornali domani. Chi risponde? Devo rispondere io. Io direi a Rivolta. La domanda era rivolta ai redattori di Onda Rossa. Sì, ma ti dà fastidio che risponda a Cervello. No, ti rispondo brevemente. Come lettore della Repubblica, dei tuoi articoli, e come lettore anche di Onda Continua e ascoltatore di Onda Rossa, credo che si possa dire tranquillamente da parte dei compagni di Onda Rossa che le leggi ti consentono, se sei stato calunniato, di chiedere che l'autorità giudiziaria si pronunci e che il giornale, sia esso stampato o sia trasmesso per radio, sia punito per quello che ha fatto. Ma questa è una cosa diversa dal chiudere completamente la bocca o dal sigillare gli impianti e gli stabilimenti tipografici. Si tratta veramente... Politica, non te ne penso benissimo che chiunque può presentare una guerra. Quello che voglio dire è, quando uno si isola politicamente da una serie di settori della società, e voglio dire, è poi quantomeno contraddittorio che proprio quei settori che sono stati il centro dell'attacco più duro di Radio Onda Rossa durante i momenti caldi, penso a DP, penso al gruppo degli 11, penso alla Città Futura, penso a Radio Città Futura, penso anche ad altre situazioni di movimento con le quali voi vi siete comportati, diciamo, con una certa irruenza, ecco, contribuendo a un vostro progressivo isolamento da un tessuto sociale. Io su questo voglio una risposta, non sul fatto che potevo presentare una querela per calunnia, perché questo lo so benissimo. Vabbè, no, senti, sì. Prima di tutto non è che Onda Rossa ha mai fatto delle calunnie gratuite. Come radio ci siamo sempre limitati a criticare i contenuti degli articoli dei giornali sugli avvenimenti che caratterizzano sempre e costantemente lo scontro di classe in Italia. Ora, ovviamente, se un articolo ha dei contenuti che sono profondamente contrari ai movimenti di lotta, all'opposizione di classe, ai militanti che con la loro vita portano avanti una lotta per trasformare la società, è ovvio che ci sarà una critica serrata e durissima. Anzi, se la radio esiste è per dare voce, e l'abbiamo ripetuto tantissime volte, a quei soggetti antagonisti che non si riconoscono nelle leggi, tanto per citare, di questo Stato, ma che vogliono lottare e lottano tutti i giorni. Quindi è chiaro che se Carlo Rivolta o un altro giornalista fa degli attacchi velenosi, costanti, e quindi io la rovescio, questa Onda Rossa è nata dopo che i giornali, anche Repubblica, faceva articoli contro una parte del movimento, contro quei compagni. Onda Rossa è nata da pochi anni, è nata come necessità propria dei soggetti antagonisti, dei protagonisti della lotta di classe, di dire la loro. Quindi, rispetto all'isolamento politico dei settori, tu hai citato gli 11, hai citato Democrazia Proletaria, eccetera, ma questo fa parte dello scontro di linea politica, di linea teorica, di linea pratica all'interno del movimento di classe. È uno scontro che è vissuto costantemente all'interno di tutto il movimento nella storia della classe operaia italiana, no? In questi ultimi anni, chi si è contrapposto con i suoi contenuti, con la sua pratica, a volte delatoria, contro chi lottava, dico, aveva evidentemente delle critiche, anche da parte di Onda Rossa. Onda Rossa non si è mai schierata per etichetta o per organizzazione, si è sempre schierata sui contenuti, sempre, costantemente, perché Onda Rossa non è né la radio di questo né la radio di quell'altro, insomma, si è sempre detto è la radio della parte militarista, della parte più dura dell'autonomia, o questo non lo lasciamo a chi ha bisogno sempre di etichettare, dico, lo scontro di classe, le componenti del movimento, eccetera. La radio Onda Rossa era una voce di tutti, hanno parlato tutti, Onda Rossa ha parlato Democrazia Proletaria durante la campagna elettorale, pur avendo una posizione astensionista abbiamo dato voce a tutti, a chiunque. Abbiamo fatto dei dibattiti, degli scontri, dei contraddittori. Chiaro, io ripeto, Onda Rossa ha anche una sua linea di condotta, che è quella dell'antagonismo, dell'informazione che non viene mai posta in risalto rispetto ai giornali. Io so che domani ci aspettiamo quello che ci siamo sempre aspettati, però oggi c'è una cosa diversa, e cioè l'attacco all'informazione. E quello, almeno quello che ci aspettiamo noi dai giornali domani, è che questo attacco all'informazione venga messo in risalto. Qui non si tratta di difendere o meno determinati compagni, che tra l'altro, ripetiamo, alcuni hanno con la radio soltanto un rapporto che hanno tutti gli ascoltatori, cioè la Onda Rossa possono telefonare chiunque, anzi noi diamo sempre costantemente il nostro numero di telefono perché riteniamo che l'informazione debba circolare proprio dal tessuto sociale. Ora noi non ci siamo isolati in nessun modo dal tessuto sociale che riteniamo fondamentale, importante, cioè gli sfruttati, gli oppressi, la classe operaia, la gente dei quartieri, le donne, gli studenti, anche i democratici, perché per noi però diamo a democratico una parola sostanziale, non diamo una parola di fuoco. Tutta una volta sei venuto alla radio, Carlo, allora stai attento perché potrebbe farti una data di cattura, perché tu sei venuto alla radio, tu e altri giornalisti. Ok, io prima di passare la parola voglio ricordare che siamo in diretta dalla SNIA per la veste della radio, quindi anche un invito, insomma, all'uditorio che abbiamo davanti, se c'è un commento, una riflessione, una domanda da fare sugli audio che mandiamo, insomma il microfono è aperto, vuole essere una trasmissione il più interattiva possibile. Beh, qui ci sono parecchie cose da... intanto da spiegare, da illustrare meglio, perché a distanza di anni è difficile collocarle e capirne il fondo, la sostanza di questi battibecchi, insomma, che ci sono stati. Innanzitutto quello che risalta è che in Italia c'è il mixer, tutte le apparecchiature, perché quello era la vita della radio. Tra l'altro era un mixer bellissimo, per chi se lo ricorda, veramente bello, cioè non so quanti canali di legno, era una cosa meravigliosa, insomma, quel mixer, e più tutte le altre apparecchiature che ci avevano sequestrato, quello ci impediva letteralmente di riprendere le trasmissioni, anche se avessero tolto i sigilli all'appartamento, alla sede, eccetera, eccetera. Quindi questo spicca proprio in modo lampante. L'altra cosa è che con Carlo Rivolta c'era, a differenza di altri giornalisti, c'era ma neanche odio, perché poi Carlo Rivolta, poveretto, si è anche suicidato, bisogna ricordarlo, una figura del giornalista che all'inizio aveva anche dei numeri, si era fatto strada all'interno della Repubblica, insomma, poi in qualche modo la direzione di Repubblica evidentemente nel tempo non aveva corrisposto questo suo impegno, insomma, aveva avuto anche delle vicende personali particolari che, insomma, lo hanno sicuramente segnato. Però in quel periodo in cui Carlo Rivolta si specializza come giornalista interno a certe dinamiche, soprattutto quelle dei movimenti di quegli anni, veniamo direttamente a contatto anche prima della nascita di Radio Onda Rossa. Io ricordo personale, insieme a un altro compagno, Riccardo, era il periodo del 77, quindi del subito dopo l'AMA, insomma, o addirittura non era nell'immediatezza di l'AMA, era diciamo tra il 2 febbraio e quindi subito prima di Lama, scusate, tra il 2 febbraio e l'episodio di Lama successivo, quindi la sparatoria di Piazza Indipendenza, dove io e questo compagno andammo personalmente a portare un comunicato a Repubblica tramite Carlo Rivolta, con cui, insomma, Carlo Rivolta veniva all'assemblea di movimento, partecipava, prendeva appunti, insomma, era tranquillamente accettato, non c'erano grossi problemi, non tutti i giornalisti partecipavano all'assemblea di movimento, ma so, un certo numero sì. E portammo questo comunicato perché era una versione proprio sui fatti di Piazza Indipendenza che, insomma, si distaccava ovviamente da quelle che erano le versioni giornalistiche, insomma, anche di Repubblica. E Carlo Rivolta lesse questo comunicato, era molto secco, non ci aveva svolazzi ideologici eccetera eccetera, però una ricostruzione dei fatti diversa, e lui ne prese atto, dice: però io non posso prendermi la responsabilità di pubblicarlo perché smentiva certe cose eccetera eccetera, e ci portò da Scalfari, e quindi ci incontrammo con Scalfari, e Scalfari, che all'epoca, insomma, era sta figura ieratica come ancora oggi, solo che, insomma, era molto più lucido di quanto è oggi, lesse, soppesò proprio questo comunicato, dice: va bene Carlo, dice, benissimo, noi lo pubblichiamo e a fianco ci mettiamo un commento che lo stronca proprio, e lì gli spiegò proprio a Rivolta, no, perché devi scrivere, perché questa frase, allora proprio tiro censura. Allora noi, io e sto compagno, dice: vabbè, a ridacci il pezzo di carta, se ne siamo andati, lascia perdere, se lo devi pubblicare così ci rinuncio, insomma, no? Quindi in quella circostanza, insomma, adesso è un episodio che ho voluto raccontare per dire che la ruggine era relativamente con Carlo Rivolta, perché in quella circostanza Carlo Rivolta non si assunse la responsabilità, per esempio, né di pubblicarlo, né tantomeno di citare, poteva anche citarne alcune frasi, poteva, insomma, nella sua autonomia del giornalista poteva farlo, non lo fece, andò da leader Massimo, da Scalfari, figuriamoci, eccetera eccetera, e lui si adeguò a questa situazione. Quindi quando poi in questa circostanza sentite il battibecco, va, voi democratici adesso fate appello alla democrazia, però poi gli attacchi, e beh, io e quest'altro compagno, ma poi, insomma, tutti l'avevamo capito, ma testimonianza diretta, come si dice, veniva proprio da là questo atteggiamento, no? Perché allora democraticamente tu dici: riceviamo e pubblichiamo, no, dice pubblichiamo, il direttore dice pubblichiamo, però lo censuriamo, lo divisezioniamo questo comunicato, proprio per, diciamo, metterli all'angolo, metterli alla berlina, ridicolizzarli, insomma, fare il massimo, la massima critica possibile. Quindi, insomma, la distorsione che Carlo Rivolta, e quindi la contraddizione che Carlo Rivolta tenta in questa circostanza di addebitare alla radio, dicendo: ah, voi attaccate i giornali, quello e quell'altro, poi adesso volete solidarietà democratica, e beh, insomma, noi l'avevamo sperimentata per quanto riguarda Repubblica, poi il discorso si poteva anche allargare, ma in questa precisa circostanza, proprio con lui, in questo episodio e poi tanti altri, per carità, insomma, però questo è proprio un ricordo personale che insomma significa qualcosa rispetto a questa conferenza stampa qui, insomma, che, in cui poi insomma la risposta del compagno mi sembra abbastanza abbastanza centrata, insomma il tentativo era quello di non consentire o comunque di ridurre la dialettica politica di quegli anni a un discorso: voi siete quelli isolati perché criticate tutti e questo va portato all'isolamento. È un po' come il discorso dell'Inghilterra rispetto all'Europa, no? Allora c'è nebbia sulla manica, il punto di vista inglese è qual è? Nebbia sulla manica, il continente è isolato. Cioè è un po' questo, insomma, non è che l'Inghilterra, che è già un'isola, è isolata dal continente, no? Il punto di vista inglese è che è il continente a essere isolato, insomma, e qui è un po' la stessa cosa, insomma, rivolta dice, ma questo va portato all'isolamento, perché il tentativo era sempre quello di lavorargli ai fianchi, di dire ecco, devi smettere di criticare, devi smettere di avere questo atteggiamento se vuoi la solidarietà democratica, sottinteso, insomma, se tu me la chiedi a prescindere io non te la do e anzi ti ribatto così così. Mentre invece poi c'è Cervello, che era Mimmo Cervello, era anche un avvocato, ma non solo. Poi c'era Peppe Mattina, in quella circostanza faceva piacere l'avvocato. Mimmo Cervello è anche un personaggio politico che cerca di rispondergli sul punto di vista della calunnia, cioè sono le leggi, vabbè, ma era ovviamente superato. Carlo Rivolta risponde bene in quel caso, perché insomma non era certamente uno sprovveduto, dice, io non sto a parlare di leggi, di possibilità di difendermi da un'eventuale calunnia, sto parlando di politica, quindi è Carlo Rivolta che fa il politico, non si sottrae a questo, però con l'obiettivo di minare quella che era il punto di vista, l'integrità, la posizione, l'atteggiamento della radio, insomma, ecco, quindi c'era questa dialettica con gli altri, per tornare al tema di oggi, insomma, la radio, i media, eccetera, eccetera, c'era questa dialettica con gli organi di informazione che i compagni hanno rilevato in diverse conferenze stampa, che però, dati alcuni personaggi, e Carlo Rivolta era un personaggio di questo tipo, era anche una dialettica di carattere politico, perché poi Carlo Rivolta non a caso cita gli 11, cita Democrazia Proletaria, cioè cita quella parte buona che il potere, i partiti, insomma, non è che predileggessero, ma certamente preferivano che sopravanzasse, avesse la meglio quella parte buona lì, quella parte ragionevole, piuttosto che alla parte irragionevole degli autonomi, che non sentivano appunto ragioni e non venivano a patti, insomma, era un po'. Quindi in questo caso Carlo Rivolta non è più un giornalista, insomma, è un tramite di un punto di vista politico che cerca di interferire con la linea politica della radio, insomma. Beh, mi sembra un commento molto approfondito, eh? Andrei subito oltre perché il tempo è tiranno, come si suol dirsi. Abbiamo un altro audio che attiene più o meno sempre alla stessa tematica, insomma, quindi la dialettica, come veniva definita, fra Radio Onda Rossa e media più in generale, o comunque il discorso e il ragionamento intorno all'essere medium da parte della radio e da parte anche di altre radio. È un convegno della Fred del 1980, lo mandiamo subito in onda e poi, come prima, lo commentiamo insieme. Proporre sull'informazione, cari compagni, perché così non ci stiamo a prendere per il culo, quando evidentemente mettersi al centro determinati compromessi, no? Con le istituzioni o con i partiti, perché di partiti veramente si tratta, qui quando si parla per esempio di democrazia cristiana, proletario dell'MLS, allora evidentemente è chiaro che esiste la spacca, no? Non veniamo quindi a dire che la costruisce un partito, non veniamo quindi a dire che le radio autonomie si muovono su ottiche di partito, quando voglio evidentemente tutti una prospettiva di partito e di creazione di un'informazione che serve a organizzare il consenso, anche se da sinistra si muove il progetto delle radio che queste non hanno convocato. Io voglio semplicemente dire una cosa, evidentemente questa differenza nel modo di fare informazione esiste, no? Ed esiste perché? Perché ci sono delle esperienze diverse, delle pratiche politiche diverse, no? Che sono l'una più vicina, cioè l'una materialmente su un terreno rivoluzionario secondo me, no? E l'altra invece su un terreno che va man mano spostandosi verso le istituzioni, come dimostrato del resto, no? Evidentemente non è che chi non rientra in un progetto poi dopo non rientra nell'altro, oppure rientra nell'altro se non rientra in quello. Il discorso è questo, cioè il discorso è secondo me capire a che cosa serve l'informazione oggi. Allora secondo noi l'informazione serve a questo, serve a modificare i comportamenti, voglio dire, e non può essere nient'altro che questo, se vuole essere un'informazione di classe. Se vuole informazione di classe non può essere, allora va bene, facciamo la radio, no? Che ha una concorrenza sul mercato dal punto di vista del rapporto dello scambio fra merci, va benissimo, ma allora compagni, guardate che c'è Radio Blu e che ci sta Radio Luna e che c'è la RAI che funzionano molto meglio di queste radio, quindi a questo punto è inutile, no? Stare a giocare e dire chi sta con me sta contro, chi non sta con me sta contro di me. Qui si tratta semplicemente di fare una scelta, no? Di dire che cosa si vuole fare di questa informazione. Allora, la controinformazione abbiamo verificato, no? Che è stato uno strumento utilissimo per rompere, no? determinate manovre del potere, per esempio la strage di Stato. Però questa controinformazione è uno strumento ormai, secondo me, insufficiente, no? Qui bisogna cominciare a porsi il problema dell'informazione. Ed è quindi evidente che a questo punto io non farò il pezzente, ma cercherò di utilizzare il massimo che mi consente lo strumento tecnico, no? E quindi anche di organizzarmi tecnicamente nel miglior modo possibile, per esempio con i servizi, per far circolare questa informazione che è, secondo me, ripeto, informazione utile alla lotta, informazione che modifica i comportamenti, vuol dire. Se non è questo, no? Cioè se il tipo di informazione che si fa non rientra che sia decodificazione del messaggio borghese o che sia, andare con il registratore a registrare l'assemblea studio e dopo rimandarla, voglio dire, se non è questo, allora, capisci dove si va a finire? Si va a finire in un terreno che è sostanzialmente perdente, perché non esiste secondo me l'informazione pluralistica, non la fa Popolare, come non la fa Città Futura, come non la fa Brigante di Buzzi, capisci? Io voglio soltanto una cosa, circa un paio d'ore fa, si è arrivato una certa conclusione, e stamattina se lo dico anche piuttosto brutalmente, non si confronti, che è qui si parla di informazione, no? Sta parlando di informazione, per poi l'informazione è una cosa ben precisa, cioè la notizia. Beh, noi possiamo dire un'altra cosa, l'informazione per noi, per la realtà in cui viviamo, non è la notizia. Cioè, è il modo di gestire la radio. E in effetti questo che sto dicendo, cioè quello che ci è stato detto a Nauro, e siamo perfettamente ancora concordi su quella linea che è stata portata avanti, perché noi ci dobbiamo calare in una realtà ben specifica. Lui diceva per esempio poco fa che se la Radio Popolare, il suo progetto di tecnocrazia sarebbe confrontasse con il PC, con il DSI, vabbè, a me non c'è sta, però noi a Terni, cioè, abbiamo una percentuale di gente, circa il 70%, che fa parte del Partito Socialista e del Partito Comunista, cioè noi abbiamo l'esigenza proprio di poterci calare in questa realtà, e quindi ci dobbiamo entrare dentro, e allora l'informazione è inutile che noi la prendiamo o dal Corriere della Sera, la segniamo una lotta continua, oppure da dove va, cioè l'informazione è quella, poi è abbastanza facile decodificare l'informazione, perché sappiamo tutti, cioè, e ci abbiamo anche una certa, cioè benché ci siano questi diverbi, insomma anche abbastanza grossi, diciamo ideologicamente, però partiamo tutti da una costellazione, da una base ideologica ben precisa, e allora decodificare una notizia che dà il Corriere della Sera non è è difficile, e non è quello che fa politica, e non è con quello che tu fai incidere nella realtà, perché noi abbiamo provato da qui a tre anni passati, in tutti i modi dare notizie, dare informazioni, e quello che ha inciso l'informazione, la struttura dell'informazione è stato minimo, mentre ha inciso moltissimo tutta la programmazione della radio che noi abbiamo svolto. Ecco perché è un momento importante, è quello appunto della gestione della radio, confrontarsi sulla gestione della radio, per fare partecipi tutti di come si gestisce una radio all'interno di una specifica realtà. Cioè, perché tu il discorso lo puoi fare bene, perché alle spalle ci puoi avere o diciamo questo movimento che venga credonato, quello che sia, vivi in una realtà come Roma, che alle spalle c'è la gente che ti ascolta, e anche questo non so se sia positivo, per noi non è positivo, perché è inutile fare trasmissioni per 100 persone, anche noi a terra li potremmo fare, perché abbiamo 250 persone, 300 persone, che se facessimo un certo tipo di discussione la servirebbero, ma noi non pensiamo che sia quello lì, fare lotta di classe, cioè abbattere la borghesia, combattere la borghesia in quel modo, assolutamente, cioè per noi significa calarci dentro la realtà, capire quelli che sono i problemi contingenti che vive la classe operaia a Terni, cioè andare a lavorare con loro, capirli e cercare anche di portarli su certe posizioni, ma attraverso le trasmissioni, non attraverso la trasmissione. Ecco allora dove rientra il problema dell'informazione e dove rientra il problema della gestione della RAI. È inutile che facciamo discorsi in astratto e continuiamo a parlare, cioè, sulla base ideologica della classe operaia e così via. Cioè questi discorsi non portano un cazzo. Com'è che non ti parlo di una famiglia? No, il discorso che voi avete portato adesso, cioè che voi avete cominciato, è stato questo qua, è stato su queste basi. E su queste basi noi ovviamente non ci possiamo stare. Primo perché abbiamo una realtà diversa nella quale agiamo, e in secondo luogo anche perché non ci possiamo assolutamente, cioè, capire su questi termini. Cioè per noi agire una realtà significa un'altra cosa di quella che voi pensate. Ecco perché sono oziosi, cioè io li giudico oziosi questi discorsi, perché non portano a niente. Cioè se allora noi ci andiamo a confrontare invece su un altro piano, con chi produce, con chi fa informazione, ma intesa in senso molto più lato di quello che è la notizia per se stessa, allora va bene, allora possiamo vedere in che modo tu, radio, agisci nella realtà in cui vivi. In quel modo soltanto tu. Vabbè, io non ho capito quasi niente. Io ho l'impressione, compagno, che la continuazione mentale, da cui deriva tutto il resto, poi affronti la duplicazione, la legge, la controlegge e via discorrendo, ma una condizione che non si pretenda un accaparramento, per esempio, di una formula, si chiama essa un fred, eccetera, perché non funziona più, perché così com'è adesso è impossibile, sono stati già indetti comizi elettorali, alcuni interventi sono comizi elettorali di arruolamento, punto e basta, e non di discussione delle in concreto di cosa si deve fare. Allora se le cose stanno così, perché non dirle esplicitamente? Perché non renderle invece che sotterranei visibili? Allora voglio dire che per esempio una radio dell'autonomia ma perde un sacco di tempo se vuole veramente convincere o convincersi nei confronti di altri che ce la pensano diversamente, e allora guadagna molto più tempo, ha molto più proselitismo, lavora molto più in senso organizzativo se si confronta con quelli che la pensano già inizialmente o ne procura altri che la pensano come lei, e così la lettera B chi e quante sono le formazioni politiche, non ne frega assolutamente niente, e non è uno stare indifferenziato a guardare, ma perché finalmente una organizzazione che possa veramente dare voce a tutti è quella in cui le carte sono scoperte, si va verso un congresso in cui tutti hanno fatto già la loro formazione, il loro dibattito nell'insieme delle cose che possono mettere d'accordo con loro, e poi finalmente dichiarato questo, dichiarato la conciliabilità o inconciliabilità del modo di fare informazione e informazione di classe, almeno si possano trovare elementi di coagulo, e ci sono, su cui si trova d'accordo. Ecco perché io parlavo, non esiste più la possibilità di una fredda unitaria che rappresenta una politica culturale addirittura nei confronti di diversi, nei confronti dello Stato, esiste semplicemente date le forze politiche che sono in questo momento antagonistiche e non complementari sulla visione del mondo e il modo di comportarsi nella logica sociale, solo la possibilità di creare dei coordinamenti che si internano fino in fondo sulle cose che contano, cioè sulle cose che contano da un punto di vista di radio e gestione della radio, le cose minuti, quelle che possono far sopravvivere anche le piccole radio, cosa che non è accaduta proprio perché la strada la prende è una strada di ideologia notizie che tendono a sovrapporsi su altre ideologie. Ecco perché io ho sostenuto, mi pare che qui ci sia la conferma che è importante andare a carte scoperte verso un congresso, non per cercare un pateracchio, una unificazione che non sia un cazzo di niente, oggi come oggi, 78 e 79, con i tempi che corrono, ma piuttosto una volta che si faccia un confronto concreto e ognuno gioca le sue carte, ognuno moltiplica le sue forze e i suoi argomenti, si possa trovare invece quel minimo comune denominatore, visto che in fondo non esistiamo solo noi in Italia, ma c'è una persona di classe che ha dei conti da regolare, non solo con Tizio, Caio, Sembrano, ma con tutti quanti noi, e le vuole guardare abbastanza presto, e allora è chiaro che quel coordinamento si può trovare, salvo restando le diverse impostazioni. A me non importa assolutamente niente confrontarmi con l'autonomia o con Città Futura o con l'MLS in questo momento o con Lotta Continua, perché già lo faccio in altra sede, perché ci sono altri eventi, altre occasioni concrete giorno per giorno. Mi importa semplicemente che da un congresso, da un convegno venga fuori questo coordinamento che consenta di affrontare, e sì in maniera unitaria, quelle poche modeste ma concretissime cose che permettono di sopravvivere alle piccole come alle grosse. Tranquillo, questa non è la sede all'interno della quale si possono scontrare delle posizioni, anche sull'informazione, diciamo, abbastanza sclerotizzate in questa parte, che sono le stesse di quelle di Napoli, e che bisogna aprire all'interno della radio un dibattito, diciamo, per settori, no? Per settori omogenei, in cui queste, diciamo, queste sclerotizzazioni, per usare la parola, lo sai il concetto che prima batteria prima si esprimono in modo aperto, a carte scoperte sostanzialmente. Allora, io credo che questo convegno qua si può concludere sul fatto della necessità di questo tipo di lavoro nel prossimo periodo e della necessità di convocare nel momento in cui si viene fuori, diciamo, questo tipo di lavoro, nel momento in cui attraverso questo lavoro si ricontrappano le altre radio, altre realtà, un congresso della FED. Quindi questo convegno si conclude su questo dato sostanzialmente, no? Per cui da domani in poi, i compagni della radio, comunque le radio che si sentono omogenee sui punti che molti vedono, probabilmente io non ce l'ho. Ecco, comunque, questo per quanto riguarda la radio. Dato che per andare sull'operativo rispetto a questo dibattito, le radio che si vedono o comunque credono di poter discutere insieme, quindi di poter discutere insieme costruttivamente rispetto a questi problemi, si vedono domani mattina qua. Sono aperte tutti quanti gli altri appuntamenti, cioè non ci stupiremo più assolutamente di riunioni di aria, di controaria, di settori politici, frazioni, e così via. Mi sembra chiaro che il dibattito che va avanti in questo momento. Nel momento in cui io chiedo anche preventivamente, anche la visione di altri compagni, nel momento in cui noi domani ci riuniremo e guarderemo e vedremo un po' le realtà delle varie radio e quello che si stimerà su questa cosa, faremo anche una proposta, nel momento in cui parte questo dibattito, di confronto con le altre situazioni che si creano. E su questo confronto ovviamente credo che si esprimeranno anche dei contatti con le altre situazioni in modo da poter fissare la data del congresso della FED alla luce di questo dibattito. Ma sì, abbiamo ascoltato un audio molto lungo, era necessario comunque estrapolare almeno 3 o 4 interventi per fornire un minimo di intelligibilità, diciamo, no, al convegno che andava in corso. Si scontravano, era il 1980, una serie di posizioni, era la data sembra, anche a me stupisce in effetti, però pare... probabilmente c'è un po' di confusione con le etichette che sono state sovrapposte sui nastri, ma sostanzialmente il percorso nasce comunque nel 1978, una proposta di federazione tra le emittenti che si definivano libere, un aggettivo che comunque a Radio Onda Rossa stava abbastanza stretto, libere democratiche, e che ha una serie di vicissitudini, diversi appuntamenti congressuali, diciamo, ce n'era stato uno precedente a Napoli, e questa sostanzialmente, credo si sia capito, è invece il convegno che decreta lo scioglimento di fatto, diciamo, di questa federazione, a partire dalla quale si sdoppieranno, diciamo, no, tutte le varie anime che avevano contribuito alla federazione stessa in due diciamo assemblee separate, che potremmo definire due assemblee di area. Onda Rossa inizierà un confronto con Controradio di Firenze, con altre emittenti, quella padovana, tanto per citarne un'altra, con cui evidentemente c'era maggiore affinità. Buonasera a tutti e a tutte, e a chi ci ascolta in streaming su Onda Rossa. Io sono Fabrizio, sono di Blackout, che è una radio rispetto a Onda Rossa che a settembre compierà 25 anni, quindi c'è un gap generazionale non indifferente. E niente, io volevo solo intervenire sui vari interventi, sui vari pezzi, frammenti di archivio, giusto per un po', per io tendo molto a così modernizzare, no, mettere quello che ascolto, perché questo, cioè, io sono del 78, quindi praticamente nascevo in quel periodo, non posso né parlare, però mi ha fatto così, mi ha riportato alla luce delle cose molto odierne, su ad esempio i sei compagni che vengono arrestati e il fatto che c'è una conferenza stampa, no, poi perché comunque ultimamente a Torino sono stati arrestati sei compagni, per esempio, vengono sempre sulle nostre radio, passano, diciamo, passa l'ordinaria repressione, no? Più locale o più internazionale, e quindi mi sono così immedesimato, no? nel quotidiano. Sicuramente come Blackout non ci sarebbe stata nessuna conferenza stampa, insomma, con Blackout il rapporto con poi quelli, appunto, erano altri anni, c'era tutto un'altra tipologia di società, il paese era anche diverso. Oggi viviamo i nostri tempi, e per quanto riguarda Blackout, che arriva da comunque un'esperienza che nasce dalla Pantera, ma che pian piano si fa più, diciamo, autonoma dal percorso della Pantera, e si sposta più sulle dinamiche poi individuali del vero e proprio dell'assemblea che autogestisce la radio. Se devo pensare che ad oggi vengono, appunto, arrestati sei compagni, faccio una conferenza stampa e parlo con i giornalisti, io mi dico no, cioè non lo farei mai, anche perché se Onda Rossa ai tempi era stata chiusa, gli avevano sequestrato l'apparecchiatura, anche Blackout nel 2010 ha rischiato di morire, non perché per i sequestri, seppur comunque indagini nei locali della radio sono stati perpetrati, nel senso abbiamo avuto perquisizioni per varie operazioni di magistratura e operazioni di polizia, però se devo pensarla, appunto, per quanto è la mia esperienza, io trasmetto a Blackout dal più o meno 2000, anche se ho avuto delle esperienze prima del 96, penso anche che la cosa che dice il giornalista di Repubblica sul fatto voi cercate il consenso da tutte le forze possibili e immaginabili, in quel momento erano quelle democratiche, ma poi magari ai microfoni o comunque sostenete la lotta armata, l'extraparlamentarismo, ecco, noi abbiamo la situazione simile, nel senso che Blackout è un'associazione a non scopo di lucro e quindi è ospitata in una struttura del comune, e quindi molte volte i giornalisti non si confrontano con noi, ma anche perché noi non vogliamo nessun confronto, più che altro si confrontano con tra virgolette il controsenso che c'è di base per quanto riguarda la burocrazia, insomma, è normale trasmettere sulle bande, sull'FM, non si può fare in una casa occupata, se no l'avremmo fatto in tempo zero, non ci saremmo neanche posti il problema, insomma, ma sei illegale proprio, cioè ti chiudono proprio la frequenza. Per questo io vorrei un attimo mettere un punto su questi frammenti d'archivio, per portare un po' le nostre storie, queste storie alla quotidianità, no? Visto che si parla di radio come media, nell'ultimo frammento si parlava di informazione, controinformazione, dove andare, insomma, praticamente, visto che era un confronto tra varie radio libere del tempo. Sicuramente, essendo attaccati molto dai giornalisti, noi abbiamo un giornalista che si chiama Massimo Numa, non so se ne avete sentito parlare, che è proprio stipendiato, immaginiamo, dalla questura, cioè la questura gli passa le veline, lui fa l'articolo e scrive un sacco di nefandezze, e quindi attacca parecchio i movimenti, blackout in particolare, se delle cose passano da blackout. Delle volte i giornalisti si confrontano con blackout accendendo i 105-250 o lo streaming, non a caso, non so se ne avete sentito parlare, si parla ultimamente di compagni che combattono sul fronte in Siria, in Rojava, ce ne sono un paio, anche amici che sono usciti al nord di cronache, ecco, negli ultimi articoli usciti sulla Stampa, perché Massimo Numa lavora per il giornale La Stampa, che noi amiamo tanto chiamare la Busiarda, e si citano proprio delle trasmissioni di blackout in cui compagni dal fronte di Raqqa piuttosto che in altri fronti di guerra parlavano con una persona in studio, e quindi c'è citato nome e cognome della compagna, dei compagni, eccetera eccetera eccetera. Quindi che cosa... È ovvio che in una situazione così moderna, odierna, in cui poi c'è tutta una marea di altra informazione, perché comunque ci sono i social, ognuno di noi fa controinformazione sulla propria pagina Facebook, se ce l'avete, o qualsiasi altro posto collegato a un cellulare, a una rete. Ecco, in questo contesto sicuramente la controinformazione, per quanto mi riguarda, È una pratica che dovrebbe essere non tanto di contrasto a appunto quello che viene scritto sui giornali. È normale che se io vado a fare la rassegna stampa al mattino e leggo l'articolo su i foreign fighters, è normale che non è che non posso star, me ne sto zitto e non dico niente, anche se comunque blackout soprattutto nelle rassegne stampa cerca sempre di dare la lettura della notizia e di far capire, diciamo, i toni della radio attraverso magari i toni della voce, insomma. Però è importante in questo momento, secondo me, visto anche le ultime leggi, il decreto Mini Orlando Minniti, Torino poi in questo momento, grazie anche alle cose calcistiche, agli eventi sportivi e all'onore di cronaca per queste cose qua, secondo me è necessario confrontarsi su quello che è veramente importante, così, informare, controinformare, dire, perché non sempre è importante appunto prendere un articolo di giornale e contestarlo al 101%, è molto più importante avere un compagno o una compagna che ti telefona da sotto il CIE CPR e ti dice che i migranti sono in sciopero della fame, perché sì, il mezzo radiofonico, il mezzo comunque non morirà mai, secondo me, nel senso che adesso ci stanno provando col digitale, quindi, ed entra nelle case più o meno di tutti, può entrare nelle case di tutti, nelle macchine, nei computer, più o meno di tutti. Quello che è importante è sicuramente informare, dare voce, appunto, molti degli spot che sono scritti sulle magliette o sulle grafiche delle nostre radio sono dare voce a chi non voce non ne ha, piuttosto che di altri sotterfugi, per dire che appunto diamo voce a queste cose seguendo, sì, ovviamente non si può essere chiusi nel proprio mondo, ma si deve per forza confrontarsi col mondo esterno, però il confronto ce lo dobbiamo creare noi nel momento in cui leggiamo la situazione, e quindi sicuramente Blackout non farà mai una conferenza stampa perché non serve a niente, e sicuramente Blackout non parlerà mai con i giornalisti perché i giornalisti comunque ascoltano la radio, però Blackout continuerà sicuramente a far parlare chi è in strada a lottare, che si difende da uno sfratto piuttosto che da un abuso della polizia, perché è quello che bisogna poi raccontare oggigiorno, e sono le situazioni che cambiano, come immagino poi negli anni 70 abbiano deciso di raccontare le loro storie. Noi dobbiamo dobbiamo raccontare le nostre con il nostro punto, che è quello sempre critico, anche perché i giornali locali o non locali comunque non arrivano dove noi arriviamo, nel senso che su molte notizie io vedo che c'è proprio un silenzio assoluto, e allora magari far parlare chi non ha voce vuol dire portare alla luce una propria storia. Grazie, vi ringrazio. Ok, andiamo avanti. Il prossimo audio ci sembrava un po' una sorta di raccordo fra la prima e la seconda parte di questa trasmissione, per così dire, perché da un lato è un audio che parla della chiusura di una radio, quindi l'abbiamo visto, insomma, gli anni sono quelli che sono, Radio Onda Rossa è stata chiusa, non è l'unica, Radio Lice e forse è il caso più noto, quindi da un certo punto di vista attiene un poco a quello di cui abbiamo parlato finora, diritto all'informazione e repressione che si abbatte appunto su voci e discordi e dissonanti eccetera eccetera. Dall'altro punto di vista ci introduce invece su un nuovo argomento, per così dire, che è il modo di fare radio, come può essere sfruttato lo strumento radiofonico. Sentiremo quest'audio i compagni di questa radio, che è Radio Rosa e Giovanna di Rimini, che viene chiusa nel 78. Parlano della chiusura di questa radio inciando una sorta di pista teatrale via microfono, citano pezzi di 1984 di Orwell, eccetera eccetera. È un audio molto significativo da questo punto di vista, che ci introduce appunto alla seconda parte della trasmissione, in cui vorremmo un po' parlare dei vari modi, anche dei modi più leggeri, scanzonati, e in cui si possono dare le notizie e si può fare controinformazione via radio. La punta di ignoranza, nascosta con creanza, costume e fettazione, pellicce a profusione, vestiti di carré, capelli con pantè, allegra sodomia, perfetta polizia. Prova Giovanni contro, prova Giovanna, scava, lancia ironia, risate, pallottole di lava, mina la base in mura di cieco ottusità. Denso sudario nero che avvolge la città. Rosa Giovanna, forza sul naso della gente, se non senti il profumo, non ha capito niente. Venerdì 17 marzo 78. Ore gravi della Repubblica per la sanguinosa impresa delle Brigate Rosse. Dopo il massacro, nessuna traccia di Moro. Il paese si è fermato. Dice no al terrorismo. La Repubblica, venerdì 17 marzo. Nessuna notizia del leader di Cida con la strage della sua scorta. Il rapimento di Moro. L'Italia ha reagito. Sciopero generale, fiducia al governo. Hanno colpito il cuore dello Stato. 1978 o 1984. La guerra è pace, la libertà è schiavitù, l'ignoranza è forza. Ciò di cui si vuole definire qui la natura non è tanto la morale delle masse, il cui atteggiamento ha un'importanza trascurabile per tutto il tempo in cui esse sono occupate a lavorare, quanto la morale stessa del partito. Si suppone che anche il più umile membro del partito sia competente, industre ed anche intelligente, seppure entro certi limiti, ma è assolutamente necessario che egli abbia una fede cieca, che sia un fanatico ignorante, i cui sentimenti fondamentali hanno da essere la paura, l'odio, l'adulazione e lo stato orgiastico del trionfo. Si richiede in altre parole che egli abbia la mentalità conforme allo stato di guerra. Il dissolversi della ragione che il partito richiede e favorisce nei suoi membri, e che è assai più facilmente raggiunto in un'atmosfera di guerra, è ora quasi universale. Il resto del cammino, sabato 18 marzo 1978, cronaca di Rimini. Rinnovata al Consiglio Comunale la condanna per i fatti di Roma. Due critiche di Ghirardelli, PC, sulla demenziale trasmissione di Radio Rosa e Giovanni. Ghirardelli, che ha parlato per il PC, è stato particolarmente duro nel chiedere l'isolamento totale del terrorismo e di chi lo fiancheggia. Pesanti critiche ha poi mosso a Radio Rosa e Giovanna, che l'altra sera ha messo in onda una trasmissione il cui contenuto Ghirardelli ha definito demenziale. Nella trasmissione, ha detto il rappresentante comunista, si sono sentite frasi come «la prossima volta facciamo fuori il Papa», «la nostra rabbia non potrà mai finire, batteremo tutti», «per noi oggi è giorno di festa». E poi imitazioni della voce di Moro, una pseudo intervista con la madre del presidente della DC, sghignazzate varie. E in relazione questa ha chiesto Ghirardelli, sostenendo la necessità di colpire anche chi ci vetta con i terroristi. Le ideologie politiche perfettamente elaborate erano state tuttavia preannunciate dai vari sistemi, generalmente definiti come totalitari, e le linee principali che avrebbe assunto il mondo, una volta emerso dal caos, erano state per lungo tempo chiare. E che genere di persone avrebbero avuto il controllo del mondo era stato egualmente chiaro. La nuova aristocrazia era composta per la maggior parte di burocrati, scienziati, tecnici, organizzatori sindacali, periti di pubblicità, sociologi, maestri, giornalisti e politicanti di professione. Questa gente, che aveva avuto origine nelle classi medie salariate e nei gradi superiori delle classi lavoratrici, era stata formata e messa insieme dal mondo improduttivo dell'industria di monopolio e di governi a tipo centrale. Paragonati con le categorie corrispondenti del passato, essi erano meno avidi e anche meno tentati dal lusso, ma più affamati di pura potenza e soprattutto più coscienti di quel che facevano e più preoccupati di sbaragliare l'opposizione. Thank you. Nemico! Marcia! Sempre! Alla testa! Carabinieri! Non so chi è, non so chi è, non so chi è, non so chi è, non so chi è, non so chi è, non so chi è, non so chi è, non so chi è, non so chi è, non so chi è, non so chi è. Allora, diamo qualche informazione perché almeno qui non si sentiva benissimo, speriamo in radio un po' meglio. La prima parte è una sorta di radiodramma, per così dire, sono questi compagni di questa radio di Rimini che hanno evidentemente registrato una cassettina in cui è il parallelo evidente fra il 78 e 1984 di Orwell, no? Quindi c'è una sorta di distopia realizzata, perché al loro modo di vedere chiaramente, e quindi appunto spiegare, raccontare la chiusura della loro radio attraverso un radiodramma con musiche, pezzi di interventi appunto in consiglio comunale, quindi pezzi del 78 e letture dal libro, no? Quindi ci sembra interessante per quello. Nell'ultima parte si sarebbe dovuto sentire l'ingresso proprio dei carabinieri, anche con fare abbastanza arrogante nella radio, per una perquisizione senza mandato, quindi approfittando della ricerca di armi sostanzialmente, in cui si mettono a sequestrare tutto quello che trovano, con i compagni che dicono no, questo lasciacelo, quello che ti serve non te lo puoi portare via, insomma anche qui è un po' la denuncia appunto del livello repressivo anche che subivano le radio nel loro specifico chiaramente, e anche appunto della protervia con cui questa repressione veniva messa in atto dalle forze dell'ordine, dalla polizia, dai carabinieri eccetera eccetera. Beh, no, però è significativo anche il motivo specifico della chiusura, no? Sì, cos'era successo? In radio, a Radio Rosa Giovanna, era andata in onda una trasmissione durante il sequestro Moro, se non ricordo male, proprio nei giorni del sequestro Moro, una trasmissione satirica, potremmo definire al limite degli humor nero, per così dire, in cui c'erano anche imitazioni della voce di Aldo Moro, finte telefonate con la madre di Moro, eccetera eccetera eccetera, no? Questo si sarebbe dovuto capire un po' dall'audio. Sostanzialmente questa trasmissione viene ascoltata da un esponente del PC locale, che poi in consiglio comunale fa una sua invettiva contro questa radio che si permette di offrire il fianco alle organizzazioni terroristiche, quindi di sbeffeggiare una persona sequestrata, un alto esponente democristiano sequestrato, e quindi sostanzialmente ne chiede la chiusura, che poi è quello che puntualmente avviene. Poi nell'audio si parla anche di una manifestazione di piazza in cui era andato a fuoco un pupazzo raffigurante Aldo Moro, insomma siamo al confine tra appunto il diritto di informazione, satira, humor, per quanto pesante, ma humor nero eccetera eccetera, però le conseguenze pratiche poi tutto ciò comporta sono quelle di una richiesta de facto sostanzialmente da parte del potere politico di chiusura e di messa a tacere di questa emittente di Rimini, insomma non particolarmente nota e conosciuta, che però all'epoca era una delle tantissime emittenti libere, insomma, che erano nate nel paese. So, c'è un commento da parte di ok? Andiamo ancora oltre e il prossimo audio, l'etichetta, diciamo, che lo contraddistingue è Toto Presidente. Praticamente siamo nel 78, c'erano le elezioni del Presidente della Repubblica in Italia e Radio Onda Rossa decide di fare questo esperimento. Inizia a chiamare le persone a casa, proprio, quindi una volta tanto è la radio che chiama e non che dà il suo numero per farsi telefonare, quindi prendendo un elenco persone scelte, diciamo, in maniera abbastanza casuale, anche se poi vedremo non tanto casuale perché alcune scelte sono invece più volute, e a fare appunto proprio un Toto Presidente. Insomma, l'idea qual è? È quella di farci fuori una trasmissione satirica su un momento di altissimo rilievo pubblico istituzionale, quale quello dell'elezione del Presidente della Repubblica, un po' sbeffeggiare tra una cosa e l'altra questo momento qui. Poi la commentiamo e adesso la mando direttamente. Pronto? Sì. Sei in onda. Posso proporre? Sì, sì. Cosa vuoi proporre? Vuoi proporre? Navao alla presidenza. Non Navao. Non Navao. Non Navao presidente. Allora. Vediamo chi è Non Navao. Non Navao. Il cognome. Cesarina Carletti, vero? Si chiama? Sì, eh? Sì. Si chiama Cesarina Carletti ed è stata assolta, per esempio, il processo di Torino. Carletti. Non Navao. Brigatisti veri e presunti. Benissimo, ci pare un buon nome per un presidente. Senti, mi dai un appellativo, mi sintetizzi con un appellativo alla passata presidenza? Un appellativo alla passata presidenza. Dunque. Se puoi sintetizzare, possibilmente una parola sola. Accozzaglia di. Accozzaglia di Castelli. Ladroni. Accozzaglia di Roma, è stata una persona in particolare. No, no, no, la famiglia. Sì, sì, è una presidenza collegiale. Scusa, accozzaglia di ladroni? Ladroni. Accozzaglia di ladroni, io stiamo parlando tutto qui. Va bene. Ecco, a questo punto, siccome la registrazione è partita con questa telefonata, su questa telefonata reintroduciamo la trasmissione scusandoci con gli altri. Ringraziamo la sottotitola per la telefonata. No, volevo dire che il fatto collegiale della presidenza è. Come è Russia, è un caso abbastanza democratico. Ecco, avranno capito. Legale, no? Non è una sola persona. Allora, avranno capito gli ascoltatori, parliamo una volta, avranno capito gli ascoltatori che stiamo parlando della elezione del Presidente della Repubblica Italiana. Elezione che è appena iniziata al Parlamento da 10 minuti, credo che stanno svolgendo le operazioni preliminari. Noi fin da questa mattina abbiamo lanciato il sottopresidente di Onda Rossa, con un procedimento rovesciato rispetto a quello consueto. Cioè non abbiamo chiesto questa volta ai nostri ascoltatori di chiamarci per darci la loro opinione, ma abbiamo invece voluto noi direttamente scegliere le persone a cui telefonare. I criteri di scelta sono stati i seguenti. Certo, chi è abituato alle indagini d'Ossa probabilmente non ridirà, no? Noi abbiamo scelto sulla base dei quartieri, e vabbè, questo è un criterio normale. Però poi abbiamo preso delle strade i cui nomi ci piacessero, degli abbonati i cui nomi fossero in qualche modo significativi, anche se poi questi nomi non li abbiamo detti in onda, ovviamente, perché non fossero riconoscibili. Alcune telefonate le abbiamo ricevute lo stesso, fra una e l'altra che facevamo noi, alcuni hanno sentito il dovere e il piacere di chiamarci. Molte delle telefonate che abbiamo fatto le abbiamo scelte ad esempio a persone che avessero due nomi, oppure fossero omonimi di personalità o personaggi, o addirittura fossero loro. In questi casi, quasi sempre, ci siamo trovati di fronte al personale di servizio, le COPS, non sappiamo se di colore perché non siamo una televisione, e governanti e cose di questo genere, che nella maggior parte dei casi hanno detto di non occuparsi di politica e quindi di non sapere che cosa significa l'elezione di un Presidente della Repubblica e quindi di non sapere chi proporre. Invece, quando una proposta l'hanno fatta, è stata la seguente. Va bene. Allora, quindi questa è indifferente, ripeto, 1-1. Zaccagnini 3-1, Fanfani 5-1, Terracini 4,2-1, Pertini 4-1, La Malfa 6-1, Berlinguer con Pernacchi, ripeto, annessa Pernacchia del, dell'ascoltatore con cui abbiamo parlato. In onda. In onda? Sì, in onda. Ok. In onda rossa. Ah, allora, io contingente ci voglio Renato Curcio. Renato, la votazione di Renato Curcio diventano 51. 51? 51, e calano invece a 75,1 quello di Cesarina Carletti. No, perché già c'era un altro che aveva detto Renato Curcio, siccome è il proprio presidente questo, allora le quotazioni di Renato Curcio crescono. Prima votavamo 101, adesso 51. Ah, va bene così. Va bene così? Senti, e di Leone che ne pensi? Leone? Però con una parola sola, dimmi, secondo te la presidenza di Leone, con una parola? Era una grande cazzata, era pure grande, era un mignolo. Non hai detto niente. Però tu non hai sentito cosa mi sei detto adesso, questo l'ha già detto qualcun altro. Questo l'ha già detto qualcun altro. Va bene. Ah, ho capito, no, vabbè, comunque già qualcun altro si è riferito ai genitori del di Leone. Eh? Già qualcun altro si è riferito ai genitori del presidente Leone. Alla madre in particolare. Alla madre in particolare. Che si è riferito alla madre? Un altro ascoltatore che aveva telefonato pure ha detto che. 11,21, Pertini 15,1, la Malfa 17. Pronto? Sì. Buongiorno, mi scusi. Senta, stiamo facendo un'indagine radiofonica per chiedere direttamente ai cittadini dei quali prendiamo i numeri di telefono a caso. Chi vorrebbero per presidente e perché? Il suo candidato alla presidenza della Repubblica, chi è? Io? Sì. Al numero che ha fatto lei? Cioè, non ho capito, scusi. Il numero che ha fatto lei? Io ho fatto un numero scelto a caso. 39-39-39. Sì, che vabbè, io non l'ho voluto dire in onda, però mi è capitato questo, io so benissimo che cosa rappresenta a Roma questo numero. Sì. Però non lo volevo dire, dico, è il numero che mi è capitato, l'ho utilizzato statisticamente, diciamo. Presidente, il titolare del 39 quindi lei vorrebbe essere presidente. D'accordo. Va bene, la risento. Un'ultima domanda. Dico. Cosa pensa della presidenza Leone? Della presidenza Leone? Sì. Va bene, la ringrazio. Con questa sinistra risata, con gli scifoni, perché 39, 39, 39 è tipo, no, è scifoni. Va bene, allora diciamo tutto questo. Buonasera, stiamo facendo un'indagine radiofonica per quanto riguarda l'elezione del Presidente della Repubblica che si sta svolgendo adesso alle Camere Riunite e stiamo prendendo appunto dei numeri a caso. Volevamo sapere che cosa ne pensava lei di questa. Posso dire soltanto una cosa che. Attendo un attimo la freccia, attendo. Sì, grazie. Io non posso, diciamo, avere. Non dico pensieri di questo genere, perché sicuramente ognuno può averli, ma siccome sto diciamo, faccio servizio in una. Svolgo una certa attività, insomma, non ho. Qual è la tua attività? Eh? Qual è la tua attività? Così, insomma. Amo molto. Non so, penso di poter fare almeno di dire certe cose, ecco. Comunque siamo bene, lei non. Ma scusi, scusi un momento, ma la tua è un'attività illecita? Che no, lecitissima. Ah, perché se non l'ha detta. Anzi, la più illecita che ci possa essere, la più illecita che ci possa essere. Non è, diciamo, non è il caso. Io pur godendo di questo beneficio, sono così ligio, diciamo, così. Perseguo tanto, così perfettamente le mie idee che. Non mi scopro neanche quando sono solo. Ma lei mi ha messo in curiosità, nel senso, così, mi ha messo in curiosità nel senso che lei svolge un lavoro nel quale non può esprimere pubblicamente delle opinioni su dei fatti costituzionali. Questo mi mette in curiosità. Sì, è una. Io posso pensare che lei faccia un suo lavoro. È una curiosità. È un agente. È un agente. È quasi impossibile credere a una cosa del genere. Senta, lei è un agente? Ah, non lo so, io sono un cittadino. Va bene, e come cittadino quindi non puoi esprimere la tua opinione. Bellissimo. No, alla fine diceva no, la parte finale non la posso fare. Diceva il commissariato di San Lorenzo. È un agente? È quasi impossibile credere a una cosa del genere. Senta, lei è un agente? Ah, non lo so, io sono un cittadino. Va bene, e come cittadino quindi non puoi esprimere la tua opinione. Senta, la ringraziamo molto, ci scusi se l'abbiamo detto. Prego, ti immagini, prego. Ai nostri ascoltatori diciamo che era il commissariato di San Lorenzo di pubblica sicurezza. Va bene, scusate per l'inconveniente tecnico, però abbiamo rimediato rimandando l'ultimo pezzo che, in cui i redattori svelavano un po' quello che si era già capito avevano chiamato in quell'occasione il commissario di San Lorenzo. Insomma, abbiamo in questa trasmissione anche mandato in onda gli scherzi di Radio Onda Rossa, gli scherzi telefonici di Radio Onda Rossa, vabbè, che in realtà è un sondaggio tranquillo, fatto chiaramente con ironia, in cui si chiamano le pompe funebri, il commissariato e prima dei cittadini, per invitarli a esprimersi su, come si diceva prima, un fatto di rilevanza pubblica e istituzionale, quale l'elezione del Presidente della Repubblica. Mi piaceva solo sottolineare che la bellissima voce impostata, che un po' stona con le altre voci che magari si sentivano all'epoca e anche adesso forse dalla radio, era quella di un compagno Osvaldo, che fra l'altro poi faceva anche cose molto, molto serie, non che questa non lo fosse per certi versi, che fu uno dei compagni arrestati nella chiusura del 1980, e volevo ricordare questo, è ancora fra noi, non assolutamente, anzi se per caso ci sta ascoltando lo saluto con tanto affetto, e che è stata una voce molto importante, non a caso, non avendo, pur non avendo dentro la radio come altri che sono stati arrestati, il proprietario della testata, l'intestatario del telefono e altre voci poi più o meno conosciute ovviamente, però insomma essendo una voce che si sentiva spesso per la radio, lui fra l'altro era un compagno che seguì moltissimo tutta la questione della Fred, e ovviamente poi si fece i suoi bei mesi di galera. Beh sì, insomma l'audio era abbastanza divertente, di questo Toto Presidente, di questo tipo di trasmissioni ne sono state fatte 4 o 5, si è praticamente ripetuta la trasmissione man mano che le fumate, no, finché la fumata non è diventata bianca, diciamo, quella relativa all'elezione del Presidente della Repubblica. E la cosa che a noi ci sembrava significativa è il fatto che appunto anche Onda Rossa utilizzasse determinati registri per attraverso i quali diciamo fare anche un po' di intrattenimento, e questo da un lato credo sia importante perché va a sottolineare quanto diciamo non ci fosse solo Radio Alice, no? A svolgere attività diciamo più di carattere creativo, e che un po' tutte le radio a loro modo dedicavano un po' di spazio anche al wasir, insomma al divertimento, all'intrattenimento, con uno sfondo ovviamente sempre tematico di carattere politico sociale, ma comunque erano dei momenti che venivano fatti, talvolta si prolungavano anche nel corso della notte come in questo caso. D'altra parte c'è da dire che le ricostruzioni relative alla storia dei movimenti sociali, in particolare relativamente all'anno fatidico del 1977, nella maggior parte dei casi intravedono una rottura profonda, no? Tra l'ala cosiddetta creativa e quella invece dell'autonomia. Quello che noi volevamo provare invece a sottolineare è quanto non ci fossero poi degli steccati e che anzi ci fossero diverse attraversamenti da un campo all'altro, tanto da rendere questo tipo di divisioni certamente funzionali a un discorso che coglie una parte di verità, perché in effetti insomma queste aree diciamo effettivamente esistevano, ma appunto non costituivano degli steccati inattraversabili. Già gli indiani metropolitani avevano provato in qualche modo a spiegare questa vicenda con il famoso comunicato "I raggirati del movimento", che probabilmente molti ricorderanno o conosceranno, no? In cui in qualche modo cercavano di non prendere le distanze dagli incidenti che erano avvenuti, credo, a Piazza Indipendenza il 2 febbraio del 77, forse mi sbaglio, forse quelli di Lama, vabbè, insomma, non, ne parlerà bene Giorgio dopo se vuole intervenire. E la radio, dal suo punto di vista, riesce in qualche modo a simboleggiare questa anima, anch'essa ironica e creativa, anche attraverso i suoi spazi, attraverso le sue trasmissioni. Sì, questa storia dell'ala creativa e dell'ala cattiva, dura, eccetera, eccetera, insomma, è una delle fantasie create ad arte in assoluto, insomma, non è che non ci fossero differenze, ma assolutamente non erano tali da giustificare né far immaginare nessuna contrapposizione, almeno sicuramente per quanto riguarda Roma le cose furono completamente diverse, ci furono contatti, ci furono sinergie, ci furono come si dice magari oggi contaminazioni, insomma termine che a me non piace, ma tanto per capirci, insomma, quindi è un'invenzione da un lato giornalistica, dall'altro serviva a demonizzare quella parte che poi ha proseguito, perché l'ala creativa insomma non è che abbia avuto un seguito di per sé come creatività in quanto tale fine a se stessa, insomma era uno dei momenti di espressione sicuramente di quel movimento. Le parti hanno dialogato tantissimo, hanno fatto delle cose insieme, le hanno concepite insieme, le hanno progettate e realizzate insieme. Questo comunicato, che si potrebbe anche leggere perché non è lungo, insomma, fu redatto e studiato insieme a... all'epoca c'era un giornale, si chiamava Zut, un giornaletto, c'erano dei compagni che lo facevano, insomma, che poi alcuni facevano parte del male, un altro un giornale satirico, altri no, altri venivano dal movimento, eccetera, eccetera, con cui si era costantemente in relazione, e quello fu scritto dopo la manifestazione che ci fu a seguito della sentenza Panzieri, quindi il 5 marzo per l'esattezza a Roma, in cui dopo questa sentenza il movimento, un'autoconvocazione quasi uscita all'Università di Roma, numerosissimo, erano più di 30.000 persone sicuramente, e che trovarono ostacoli di tutti i tipi sul loro cammino, soprattutto ovviamente da parte delle forze dell'ordine, il corteo si ricompattò più volte, eccetera, eccetera, e alla fine di questo corteo, perché ci furono scontri numerosi e prolungati, e fu concepito questo comunicato, insomma, che era talmente ben fatto che un giornalista dell'epoca molto noto, che trasmetteva da Rai 2, che si chiamava Gustavo Selva, lo chiamavamo Gustavo Belva perché era solito, insomma, fare delle filippiche contro i teppisti, eccetera, eccetera, lo prese per buono e lo stava citando, lo citò, insomma, veramente, dice: guardate, qui c'è, vedete che è vero che ci sono gli infiltrati, i provocatori che strumentalizzano tutto, perché qui c'è stato un comunicato in cui sostanzialmente in questo comunicato questi raggirati che si firmarono, i raggirati del movimento, dicevano che 300 autonomi avevano strumentalizzato 30.000 persone che sotto il rigonfiamento della giacca avevano delle cose strane che poi scoprimmo essere delle bottiglie morte, insomma è giocato tutto in questi termini, molto simpatico, anche breve, e questo è un grande pregio, perché queste cose devono essere brevi, sennò poi non funzionano, e fu uno dei punti, diciamo, di un certo, quasi un apice, insomma, di questa ironia che attraversava il movimento, ma che era condivisa, ripeto, non era affatto patrimonio di una parte rispetto ad un'altra, insomma. Sì, il movimento dell'epoca dava spesso prova anche di questa sua capacità di passare dal serio al faceto, per così dire, quindi di coniugare capacità di mobilitazione politica e capacità anche di sbertucciamento degli strumenti del potere, dell'informazione. Si è citato questo comunicato che a leggerlo, cioè uno ad oggi a leggerlo si pone anche delle domande sulla sagacia, diciamo, di questi giornalisti, perché è evidentemente ironico, però fu anche preso per buono. A me viene in mente anche i famosi articoli, le prime fake news, per così dire, su Ugo Tognazzi a capo delle BR, eccetera, eccetera. C'era questa capacità, insomma, che era una capacità da mettere in luce, appunto, e anche smitizzare un po', come si diceva prima, quella contrapposizione radiolice bolognesi, i cazzoni, diciamo, per così dire, del movimento, invece i romani, quelli i barbari che calavano sulla città e dove passavano non cresceva più l'erba, insomma, questo va smitizzato, o quantomeno, appunto, come si diceva prima, c'è una compenetrazione di entrambi i momenti. Sempre sul solco di questo ragionamento andiamo a trasmettere l'ultimo audio con un piccolo inciso. L'archivio di Rai Onda Rossa che stiamo faticosamente cercando di rendere, di digitalizzare e quindi poi di rendere fruibile in seconda battuta, è pieno e ricco di tantissime cose, ma è ricco anche di audio di questo tipo qua, un audio che avevamo anche selezionato ma che non manderemo perché non si sente benissimo, è un dialogo immaginato riprodotto da un redattore di Radio Onda Rossa in onda, in studio, fra Carlo e Marco Donat-Cattin. Forse sapete, comunque ve lo dico, l'uno è era un importantissimo esponente della Democrazia Cristiana e il figlio stava in una formazione lottarmatista. Nel momento in cui quest'audio viene mandato, il padre Donat-Cattin viene, ci sta un dibattito alla Camera per metterlo sotto accusa fondamentalmente per favoreggiamento per la fuga del figlio sostanzialmente. Quindi Radio Onda Rossa ne approfitta, diciamo, improvvisa questo dialogo che avrebbe carpito non si capisce bene come fra questo padre e questo figlio, con punte anche molto ironiche, eccetera, eccetera. Quindi è un po' un tentativo di incuriosire, speriamo entro breve che insomma il progetto di rendere fruibile questo archivio possa andare in porto e quindi che chiunque possa, spinto alla curiosità, diciamo, sentire il tanto materiale che negli anni è stato conservato dalla radio. Andiamo con l'ultimo audio, che è un TG di fantasia, quindi anche qui si usa il registro della comicità per operare un ribaltamento discorsivo rispetto all'informazione ufficiale, poi come al solito lo commentiamo insieme. Buonasera, questo è la giornata radio di Onda Rossa della notte del 16 aprile 1979. Il nostro sommario questa sera comprende fondi neri da Vital Caffè al comitato politico Enel, evasione guardie carcerarie dalla Dinara. È durato oltre 5 ore l'interrogatorio di Carlo Alberto Dalla Chiesa. Svolta decisiva nell'inchiesta contro il terrorismo. Arrestati Calogero e Fais. Altra vittima della legge reale. Mazzotto ha ucciso ad un posto di blocco di Autonomo in Borghese. Stuprato Trombadori alla casa del professore. Adriana Seroni e Inés Boffardi hanno assistito indifferenti al tutto episodio. Esce pentita dalla clandestinità la statalista Rossanda. Importanti decisioni al Consiglio Generale CGL CISL-UIL. Roma. Vital Casse, istituto di discredito pubblico, è sotto inchiesta per uno strano giro di finanziamenti concessi a diverse strutture imprenditoriali private e a partecipazione statale, nonché per illecite anticipazioni concesse sul fondo di dotazione del comitato politico Enel, il cui segretario Alvaro Storri li avrebbe posti a disposizione del sedicente Vincenzo Migliucci per investimenti immobiliari. Quest'ultimo, infatti, avrebbe utilizzato i fondi per edificare a Via dei Volsci un elegante complesso immobiliare dall'esotico nome di Comitati Autonomi Operai, con annessa piscina di stoccaggio di elementi di combustibile per centrali nucleari, in spregio di ogni norma edilizia e violando il piano del regolatore generale del Comune di Roma. Il finanziere Migliucci, già noto alla cronaca per il fallito rapimento tentato a suo danno da parte dell'anonima Sequestri, al cui vertice si dice si trovi notale De Matteo di Gioia Tauro, Sica di Gioiosa Ionica e Imposimato di Rossano Calabro e che già registra l'arresto del vivandiere di Talone, si è già in passato distinto per disinvolte operazioni in borsa con l'emissione di cartelle fondiarie relative all'edificazione di un altro complesso edilizio, sempre in via dei Volsci, al numero 6, ma la magistratura intervenne nel novembre del 1977 ordinando la sospensione dei lavori e ponendo sotto sequestro il cantiere abusivo. L'indagine sull'istituto pubblico di credito si dice nasconda altre operazioni di illecito finanziamento ad alcune cliniche rette dall'istituto religioso collettivo politico policlinico, al cui vertice risulterebbe la reverenda madre Graziella Bastelli dell'ordine religioso delle smantellate. Non si esclude un allargamento dell'indagine all'istituto centrale di emissione che in quanto ente di controllo delle operazioni creditizie di Vital Casse avrebbe dovuto riferire alla magistratura dell'esito delle verifiche. Domani saranno infatti interrogati Saffi e Darcinelli. Arrivare. Stamane alle 8:30 al carcere della Dinara gravi disordini da parte delle guardie carcerarie. Le notizie pervenuteci sono ancora confuse. Pare che le guardie, svegliatesi, hanno cominciato a distruggere tutte le strutture del carcere. Sono state rivelte tutte le porte, abbattuti i muri. Il nostro inviato ci ha comunicato che sono rimasti in piedi solo i vetri antiproiettile e i citofoni. Veniamo a Roma. È durato più di 5 ore l'interrogatorio nella prigione del popolo di Via dei Volsci dell'ex generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. L'alto funzionario del regime, accusato come noto di partecipazione a bande armate, è stato interrogato questa mattina dall'insostituto procuratore dottor Fifano, il quale gli ha contestato di essere stato, almeno nel periodo 1978-79, il capo della direzione strategica dell'organizzazione terroristica denominata CC. Come si ricorda, in questa organizzazione confluirono, a partire dal 1946, i resti dei sedicenti reggi CC, vicini all'area repubblichina. Visibilmente sconvolto era anche il suo legale, l'avvocato Giovanni Leone, il quale ha dichiarato: è un'infamia, si tenta di costruire un processo alle opinioni politiche, è tutta una montatura. L'avvocato Leone ha poi mosso una grave accusa al sostituto procuratore Fifano. A suo dire, per tutta la durata dell'interrogatorio, Fifano avrebbe fissato continuamente dalla Chiesa negli occhi, provocando nell'imputato uno stato confusionale irreversibile. Ne interesserò, ha concluso Leone, la protezione animali. E andiamo a Padova. Due nuovi mandati di cattura sono stati eseguiti questa mattina a Padova. Gli arrestati sono Calogero e Fais, ambedue militanti della cellula veneta di potere antioperai. A firmare gli ordini di cattura è stato il professor Toni Negri. Le prime reazioni negli ambienti vicini agli arrestati gettano nuove ombre sulla legittimità dell'operazione in corso. In una intervista che comparirà domani sull'Indietro, il latitante Gallucci sottolinea due circostanze a suo dire fondamentali. La prima è che si è compiuto un inverosimile appiattimento tra le posizioni di Calogero, iscritto al PC, e quelle di Fais, da sempre democristiano. La teoria che esista un compromesso storico fra PC e DC, sostiene Gallucci, è talmente ridicola che sembra suggerita a Toni Negri da Famiglia Cristiana, il noto settimanale satirico diretto da Carol Wojtyla. La seconda delle circostanze è questa: perché, chiede Gallucci, Piperno vuole avocare l'inchiesta a Roma, sottraendola a Negri che l'aveva cominciata a Padova già nel 1972? Ricordiamo che questo avvenne quando Fais rimase coinvolto nell'uccisione di Muraro, un teste chiave sulla vicenda della strage di Stato. Evidentemente, dice Gallucci, non tutti gli inquirenti sono compatti in questa indagine delicata. Dal canto suo, Piperno sembra deciso a rompere la cortina di riservo che Negri aveva calato sull'inchiesta. Abbiamo prove schiaccianti, ha detto, e le tireremo fuori. Ha continuato: il telegramma del presidente Curcio a Toni Negri mi fa un baffo. Qui siamo in un paese... Sì, si interrompe così, due cose, vengono cioè chiaramente tanti nomi, molti di compagni, altri di esponenti delle forze dell'ordine, della magistratura, politici, qualcuno l'aveva riconosciuti, qualcun altro un po' meno, insomma, e la data soprattutto è il 16 aprile 79, siamo a pochissimi giorni di distanza dall'inchiesta 7 aprile. E chiaramente quello che viene fatto è evidente, insomma, è un totale rovesciamento di quelle che sono le classiche notizie da TG, e l'effetto ironico, qui stiamo ridendo un po' tutti, l'effetto ironico è palese, è uno sbertucento dell'informazione ufficiale, poi data proprio con quei crismi, con quel registro, soprattutto la prima, Osvaldo, diciamo che era maestro in questo, soprattutto la prima sembrava davvero una notizia da TG, l'effetto straniante era assolutamente raddoppiato da questo punto di vista. Non so se volete aggiungere qualcosa. Va bene, io se non ci sono interventi o altro, insomma, volevo salutare gli ascoltatori e ascoltatrici, volevo salutare coloro che sono intervenuti qui alla SNIA e un po' tutti quelli che ci hanno seguito in queste quattro settimane, diciamo, in cui abbiamo realizzato questa trasmissione storica. Abbiamo utilizzato parte degli audio dell'archivio di Onda Rossa, quelli che finora sono stati digitalizzati, per dare un po' un assaggio, potremmo dire, di quello che è il patrimonio che questa radio ha conservato e costruito nel corso di questi 40 anni, un patrimonio che non è solo prezioso per chi studia storia e quindi per chi può utilizzarlo per fare ricerca, ma è, a mio modo di vedere, prezioso per chiunque abbia voglia di ripercorrere, informarsi su quegli anni e farlo tramite un soggetto attivo e protagonista della politica di quegli anni, la politica antagonista, militante di quegli anni, come Radio Onda Rossa. Quindi abbiamo inteso con questa trasmissione fare un po' un omaggio, per così dire, ai 40 anni di questa radio e alla a quello che ha fatto in questi 40 anni e all'archivio che ha conservato, e dare un buon assaggio anche di questo archivio agli ascoltatori, sperando appunto che entro breve ci sia la possibilità di rendere totalmente fruibile l'archivio, e quindi di mettere a disposizione di tutte e di tutti questo patrimonio, questa risorsa inestimabile da cui abbiamo attinto per realizzare queste trasmissioni. Io vi saluto, la festa qui alla SNIA continua con concerti, cena e quant'altro, e niente, ciao a tutti e un grosso augurio a Radio Onda Rossa.